Ok, vai. È il tuo momento. Sì, sì. Vabbè, io faccio solo gli onori di casa perché tanto poi voi saprete introdurre meglio. Ah, sono anche registrato? Ma che imbarazzo, eh. Ciao a tutti, benvenuti in corte. E dunque, Cabaret Extra Voltaire è legato a Radio Exalge, giusto? È dedicato alla drammaturgia femminile. E quello che a me piace è il fatto che tra noi della corte ed Exalge corre ottimo sangue. E quindi ci scambiamo anche delle cose, tra cui questa. Abbiamo anche portato la scena poetica da Exalge. Ma sono sempre meno i posti a Milano in cui si possono far circuitare un po' questi progetti. E a me piacerebbe anche avere più tempo fuori dalla corte per andare a proporre a colleghi di far succedere esattamente questa cosa. Con i ragazzi di Exalge, anche di Radio Exalge, è facile perché loro sono molto entusiasti, gli piace tanto ascoltare e controproporre, e quindi figata. E sono contento che siate qua e sono contento che Nicoletta è qui, quindi bella lì, benvenuti e buona serata. Grazie. Quindi adesso, per questo ottavo episodio di Cabaret Extra Voltaire, ospitiamo Nicoletta Nobile con Capriole. Frammenti al buio. A dopo, non so perché l'ho detto qua, ma insomma. Anzi, scusa Nicoletta, io appoggio qui questo, va bene? Okay, perfetto. Ti dà fastidio? No, minimamente. Perfetto. Ciao. Io leggerò questo testo che era destinato al cassetto. Quindi sono un po' felice, un po' terrorizzata dal condividerlo con voi. Però era proprio anche un po' l'idea di capire se era qualcosa che va bene, che stia dentro il cassetto. Oppure può avere un senso, chissà quale, non lo so. Se a un certo punto viene... Vabbè, faremo anche delle... Non lo so se faremo delle... Capiamo, se a un certo punto è innovato, fate che taglio corto. Il testo è testo. E Tommy lui si fa, sì, capisce, perché è teatrante. Cioè, nel senso, non è che ci sono... È testo, è una voce che dice delle cose. E si intitola Capriole, frammenti al buio. Buio. Un tonfo sordo, un corpo spiaccicato al suolo, qualcuno ha un cerottino, mi sanguina il cuore, striscia un pochettino, qualcuno sa che succede ad un corpo che non è più amato, solleva una gamba, la lascia cadere. Il movimento è disarticolato. Non so dove metterlo. Non serve più a niente. Alza un braccio. Cade per terra. Mi sento morta. Sento il battito dal collo. C'ho tutto questo corpo che non serve più a niente. Ne volete un pezzettino? Qui abbiamo un pezzo di coscia, due palle di seni, cinque paia di dita, uno è un po' difettoso, me lo sono rotto giocando a basket una volta, cioè ho giocato a basket una volta sola, e me lo sono rotto. I piedi sono abbastanza carini, qualche callo qua e là, le braccia sono abbastanza lunghe, hanno sempre abbracciato per bene, finora mi pare. La pelle, volendola, si può riusare, ma si può scorticare se nessuno la accarezza e dopo un po' si spegne. La vagina è inutile. No, è piccola, troppo piccola, stretta, attraverso non ci passa niente, né in ingresso né in uscita, è secca, secca, secca, secchissima. Il buchetto, anche lui non serve a poco, poco, è pieno di protuberanze perché la cacca di solito preferisce stare dentro. Ho questo difetto qui, io, che anche gli scarti non li butto via, me ne libero difficilmente, come del tuo ricordo, come dell'amore per te. Non mi serve a niente adesso, quindi potrei benissimo liberarmene, no? Potrebbe servire da concime se lo mangerebbero i vermi, invece niente, me lo tengo e mi vengono le emorroidi. Le emorroidi al cuore. Per di più se non lo consumo tutto mi si ammuffisce dentro, sicuro. Finirà per intaccare gli altri organi e sarà un casino disparsene dopo. Ho il fegato pieno di amore per te, cirrosi empatica. E poi ti vengono le infezioni e muori. Carne per i cani. La mia carne, carne per i cani. Che cos'è che non ti è piaciuto di me? Che cos'è che non andava bene? Forse la forma del mio sopracciglio sinistro? Ma guarda che io mi posso smodellare, mi posso informare per te, mi posso mettere in forma come il Didò. Mi vuoi fare a salsicciotti? Mi vuoi tagliare a pezzettini? Ma guarda che io mi faccio in quattro per te, mi faccio a 1000 pezzettini di salsicciotti di Didò per te, perché ancora non ho ben capito che cos'è che non ti piace di questa storia di stare un po' insieme a frecciicorare. Mi sembrava fossimo d'accordo che era bello. E tu ora te ne esci che non vuoi più. Come dovrei prenderla io? Ma siamo ragionevoli, per favore. Ma se vuoi mi deformo. Se vuoi mi slabbro per te. Mi vuoi stiracchiare? Smollare, sbordare, sminchiare, smorzare. Guarda che io non ho limiti. Se mi tiri da un lembo, mi stiracchio tutta e non mi riconosci neanche più. Mi posso adattare. Se mi vuoi un po' più smilza, smagrita, se mi vuoi un po' più smollata, io mi smonto, eh. Mi snodo tutta, io mi sventro per te. Non ne rimarrà più niente, mi sveglierò tutta storta per te. Se vuoi smetto di parlare. Parlare è sopravvalutato, guarda. Hai sentito? Ma lascia perdere tutti i miei discorsi, lascia perdere, perdere tutto quello che ho detto finora. Era troppo difficile per te, non è vero? È per quelle parolacce difficili che mi hai smollacchiato, non è vero? Giuro che non avrò più niente da dire, eh? Niente, neanche una mezza idea, nessuna rivendicazione. Ti darò solo parole semplici. Solo, sole, cuore, amore. Solo, sole, cuore, amore. E ti dirò come sei bello. Lo vuoi sentire questo? Come sei bello. Sì, lo vuoi sentire, ma ti vedo che ti sorridi tutto, che sei tutto priato. Prego, accomodati. Come sei bello, ti dirò solo ogni giorno. Prego, accomodati. Come sei bello. Prego, accomodati. Come sei bello. Come sei bello. Come sei bello. Guarda, ma mi sarei smollata anche io con tutte quelle parole difficili, quegli occhi a punta, quel dito all'insù. Basta, niente, niente. Io da oggi mi sbudello per te. Non sarò da esempio per nessuno. Farò solo cose semplici. Ti comprerò la frutta e la sbucceremo insieme. Mi sono sbucciata un ginocchio. È una settimana che cado da quando mi hai smollato. E mi esce il sangue dal ginocchio. Quando posso togliere la crosta? Ne voglio un'altra, nuova di zecca. E poi mi piace macchiare il pavimento così. Mi fa sembrare importante. Lascio tracce ovunque vado. Se fossi pollicino, mi ritroverebbero. Basterebbe seguire le macchioline di sangue sul pavimento. Non faccio altro che cadere da quando mi hai smollato. È diventato divertente, intanto perché il dolore si sposta dal cuore al ginocchio al pavimento. Potrei farlo diventare uno sport olimpico. Cadere, sbucciarsi le ginocchia, oppilalla e sono caduta. La prima volta ho pianto. No, mica per il ginocchio sbucciato, ma perché tu mi avevi smollacchiato. Sono caduta apposta, così potevo piangere in pace. E se solo quella coppia di vecchi non si fosse fermata, che fastidio! Avrei pianto anche molto più a lungo, credimi. Ma non facevano altro che vuole che l'aiuti, vuole che l'aiuti, però in tedesco. Io il tedesco non lo capisco. Allora, invece di starmene in santa pace a piangere, mi sono alzata tutta stizzita e zoppicando gli ho detto no. E me ne sono andata, senza neanche avere finito di piangere. Una caduta sprecata. Piangere è una questione idraulica, come la pipì. Se ho un dispiacere, lo devo pisciare fuori. Ma è così poco di moda piangere per amore che non so più nemmeno dove farlo. Nascondermi in bagno non si può, è troppo quotidiano. Davanti allo specchio non mi riesce, prima di dormire mi sento giudicata e meglio all'aperto, con gli altri che mi guardano. E allora mi sono tirata il martello sul dito, così per cambiare sul tema del cadere. Sempre una questione di gravità, una questione di una certa gravità. Infatti il dito non l'ha presa bene ed è diventato tutto viola. Non si vedeva più il dito sotto il viola. E per fortuna che il viola non è per niente male come colore, perché non ho neanche fatto in tempo a piangere che mi sono dovuta subito preoccupare del viola. Ci ho messo del ghiaccio e mi sono subito sentita meglio. Tanto meglio che me lo sono pure messo nel cuore per vedere se andava meglio. E invece no, non andava meglio. Faccio questo piccolo gioco. Faccio finta che era tutto uno scherzo e fra poco capace che ti chiamo e ti chiedo come va. Se per caso qualcuno conosce una pillola per smettere di amoreggiare, che la prendi e basta, non amoreggi più, Io la prenderei, magari nascosta in un pezzo di würstel. Così non me ne accorgo, come si fa con i cani. Perché un po' se lo sapessi dopo un po' che finisce tutto, magari non la prenderei, mica sono stupida. E allora, magari una pillola o un'operazione chirurgica per asportarmi l'amore come si fa con un tumore. Deve essere prelevato molto attentamente, come le zecche. Che se con la pinza le togli male, poi sei fottuto, ti restano le zampine avvelenate dentro e sei fottuto, ti rimane l'infezione e devi toglierla tutta, devi disinfettare per bene per evitare le zampette. Non è un gioco da ragazzi esportare un amore. Possono esserci metastasi negli altri organi se non si asporta bene. Ti potrei amare dal pancreas, per esempio, sarebbe un amore molto giallo. Oppure potrei amarti da un rene o dalla cestifellea e sarebbe un casino, mi farebbero male tutte le altre parti del corpo e un cuore non basterebbe, voglio dire un cerotto. E finirei per vivere senza organi e non sarebbe molto divertente, credo io. No? Instagram dice che devo andare in Thailandia. Che andare in Thailandia aiuta. Che poi io non l'ho mica detto a Instagram che tu mi avevi smollacchiata, eppure lui l'ha saputo subito. È passato dal farmi vedere gli abiti bianchi e i gatti che amoreggiano a dirmi che tu eri brutto. Eri brutto, brutto, che eri un malessere, che non ti dovevo più parlare. Ha cominciato a dirmi che dovevo andare in Thailandia e che dovevo amare me stessa e fare trekking. Ha detto che dovevo mettermi a sbrilluccicare, che era solo una questione di tempo e avrei cominciato a sbrilluccicare, ma io no. No, io non sbrilluccico, io buio, io oscuro, io nero, io torbido, io non brillo proprio, io buio, io non brilluccico, io spengo, io ho spento tutto, io. Comunque in Thailandia io ci vado se vuoi, Me la piango tutta la Thailandia. La allago tutta la Thailandia, io smoccolo tutte le monache dei tonaci, tutte le tonache dei monaci, mi tatuo il tuo nome in faccia e sul culo e vado in giro per la Thailandia tutta tatuata, che vergogna. Non dovrei dire queste cose, che imbarazzo. Io dovrei amare me stessa, invece amo te, che vergogna. Dovrei amare me stessa, invece amo Instagram, che vergogna. Dovrei amare i trekking e la Thailandia, invece non sono di esempio per nessuno. Io faccio piangi, prega, ama, io. Una vergogna. Dovrei andare in Thailandia per incontrare me stessa, che schifo. incontrare me stessa, che imbarazzo me stessa, preferivo te, guarda, preferivo quando incontravo te, guarda, anzi, se ti va di ripassare, io sono qua, abbracciata alla testa di un monaco, buddista, che mi ricorda a te, guarda. Conto le pecore dal finestrino. È la campagna, ma non mi addormento. Il flicker del telefono mi interrompe più volte. Ho fame di te. Il cibo non mi sazia. Non finisce da nessuna parte. Non ho più lo stomaco. Lo stomaco. Lo stomaco. Lo stomaco. Ecco. Un nuovo personaggio, James, attraversa il corridoio, fa avanti e indietro senza motivo. Fuori dal finestrino la pianura è divertente, è tutta nuda. Niente la nasconde, vedi tutto. Ho fame e a mangiare non passerà. C'è il profumo della cena già mangiata, oggi il mancarmi più semplice. Pianura, copriti, capito tutto. Mi manchi a pezzettini, ma non fa niente. Le nuvole sono sospese, come le scorregge del cielo. Un oggetto rotto in mille pezzi, un'immagine semplice ed efficace, non ci trovo niente di banale, banane, banale, anale, anane, anane, banane. Le capre dal finestrino sulla pianura nude, nuda, sono fatte di plastica. Il flicker del telefono non ha niente da offrirmi. Mi accarezzo come le dita sullo schermo. Facciamo a gara con le macchine per strada e stiamo vincendo. La signora indiana di fronte a me si richiude dentro al suo bozzolo. La Svizzera è come le figurine. L'immagine dietro è un fondale. Mi sembra un buon posto dove riposare gli occhi. Niente sorprese, tutto ordinato. La Svizzera è un desktop di Windows. L'alito di qualcuno mi arriva al naso, ma non mi spezza la fame. Fra poco cederò. Un oggetto rotto, un oggetto a pezzi. Chiede di essere ricostruito, non c'è da giudicare. Un soggetto semplice, per un breve racconto. Non sarà mai uguale a prima, anzi, sarà molto diverso, ma non importa. Gli alberi dal finestrino sono tutti arcigni, tutti incazzati. Fanno un'orchestra di rami incazzati. Oggi mi manchi semplice. Quasi che se allungassi la mano potrei quasi toccarti. La signora indiana di fronte a me è diventata una crisalide. I pezzi di specchio sono taglienti e mi sanguina un dito. Sono viva? È una grande notizia. Il signore a forma di uovo, James, e la crisalide si allontanano un poco da me. Puzzo di tristezza e nessuno mi vuole stare intorno. Mi metto un sacco di profumo, ma me ne rendo conto che vi do fastidio. Ma c'hanno ragione, dico io. Quando uno puzza di tristezza, neanche io ci voglio stare vicino. E dico, scusa, scusa, puoi spostarti. Metti che poi mi si attacca ai vestiti e mi si appiccica addosso. Vai a sapere come si toglie. Neanche la doccia bollente delle volte serve a qualcosa. Che schifo, ma puzze di tristezza. Ma fatelo un sorriso ogni tanto. È disgustoso, è deprimente. Te ne sei andato per la mia puzza di tristezza? Ma non puzzavo così prima che mi smollacchiassi. Te ne sei andato per via del mio occhio sinistro, quello che si chiude da solo e che fa gli occhiolini agli sconosciuti. È perché c'ho i buchini sulle guance, perché c'ho la pelle con la pasta. Sto mangiando tutto quello che ho, ma non è per far passare la fame. Quella non passerà. Passerà. Passerà. Gli alberi mi fanno paura. Sono contenta che ci sia un vetro fra noi. I treni che mi passano accanto mi minacciano di morte. Avrò fame per sempre. Vorrei essere ostinata come una radice, aggrapparmi a te come fanno i parassiti. Una volta che si è rotto, ricostruirlo è inutile. L'immagine è spaccata, ma ancora visibile. Bisogna impegnarsi di più e mangiare di più. Dimmi un po', Elika, perché giri? Per guardare da un'altra prospettiva. Il bar è aperto nella carrozza 14. È un defibrilla. Defibrillatore è disponibile in caso di necessità. Allora prenderò ancora da mangiare, tanto il cibo non va da nessuna parte. La signora indiana prende un cioccolatino con 2 T, lo scarta, se lo mangia e via. Mi concentro su dettagli inutili, perché le cose importanti non ci sono. Tu non ci sei. Oh oh. Ho mangiato tutto quello che avevo e adesso... Credo che il cibo adesso abbia voglia di rimontare, credo che non se lo aspettasse che un fondo ci fosse. Spero solo di non macchiare la crisalide con i miei resti quando accadrà. Ancora un morso, non si sa mai, non vorrei che gli altri pezzi si sentissero soli. Il signore a forma di uovo tira fuori una baguette e la crocca. Prima di restituire i miei pezzi al mondo, aspetterò che finisca. La crisalide si lecca le labbra e si richiude nel bozzolo. Non voglio sporcarla. Fra poco esploderò. Negli ultimi anni agli alberi sono spuntate le bolle. Pensavo fosse una cosa buona, invece no, è una cosa molto cattiva, è un peccato, perché sono molto divertenti. Ma forse come tutte le cose cattive sono divertenti. Mi mangio le unghie del signore cinese del 37, mi mangio la baghetta croccante del signore con la testa a forma di uovo, i cioccolatini della crisalide di fronte a me. Mi dispiace tanto per questo inconveniente. Mi scusi, non ho più fame. Ho mangiato tutto quello che potevo mangiare, anche il signore a forma di uovo, l'ho messo a bollire in acqua fredda per 8 minuti buoni. Dopo l'ebollizione, il tuorlo ben cotto perché crudo non mi piace. Dentro c'è un uccellino appena nato, l'ho chiamato Kevin. Kevin ha una cresta ed è anche piuttosto un bullo, ma si trova bene dove sta e gradirebbe non essere disturbato. L'acqua fa uno strano effetto quando viene deglutita. Quando arriva sul fondo, l'ho detto che alla fine è un fondo, in fondo c'era, si stupisce e allaga tutto. Cadaveri inzuppati galleggiano nel mio stomaco e sono tutti lividi, specialmente il signore a forma di uovo, che si lamenta delle venature blu che gli sono spuntate fra il collo e la testa. Dice che non era preparato a questo genere di avvenimenti. Gli dico che in effetti neanche io e che non sono pronta, non sarei pronta a questo genere di avvenimenti nonostante i numerosi avvertimenti che prima o poi potrebbe accadere. Mi dispiace per il signore a forma di uovo, proprio adesso che aveva finito la sua baguette. Mi dispiace per lui, per il suo guscio rotto, impossibile da riparare. Potrei tirarlo fuori e provare a ricostruirlo, ma non sarebbe la stessa cosa. Sarebbe un impiastriccio di pezzi taglienti e io mi sono già tagliata un dito. Me lo ciuccio per fermare il sangue. Così imparo a voler raccogliere i pezzettini rotti. Le eliche si devono divertire tanto con quel girare. fanno a pezzettini l'aria. I pezzi del mio stomaco si mischiano e anche se sono tutti pezzi di cose diverse, si imbottigliano. Che tristezza. Vedere tutti questi esseri rotti, morti. Vorrei risvegliare qualcuno, ma non so come si fa. Si fa. Forse con il deprilla. Con il defibrillatore presente e disponibile nella carrozza 14, in ogni caso sarebbe inutile. Una volta spaccati, i pezzi non si paccano più. E questo fiato di morte mi impuzza il naso, ma è inutile che me lo chiedete se poi non sapete la risposta. Per Dio, per Dincibacco, per Dindirindina, i tetti a spiovente delle case mi danno sui nervi, mi rendono triste, potrebbero almeno spiovere verso l'altro come un sorriso. Il telefono flickera. Sarà lui? Mi pensa. Mi ama. Mi amara. Mi amareggia, mi amoreggia. Io lo amoreggio, mi amareggio io. Ma come può un cibo che una volta era buono amareggiarti così tanto? E anche con lo zucchero non mi amoreggi più. Ecco. La crisalide cede al sonno. Sì, mi piace. Mi piace quando mi manchi guardarti sparire. Che mi manchi semplice vuol dire che non ti forzo a restare, ti lascio sfuggire. Mi serve un po' di amarezza. Un mandarino dovrebbe bastare, non mi faccio problemi. Quando il mandarino toccherà il fondo dello stomaco, non ci sarà più modo di tornare indietro. Imbratterò i fondali della Svizzera e sì, anche la signora indiana nella crisalide, così mi dispiace. Ho bisogno di amarezza e avverrà a tutti i costi. Mi sbuccio e mi lascio seccare sul termosifone. Poi mi mangio e nuoto fra i cadaveri. Gioco a carte con il signore a forma di uovo e mi metto a ticchettare. Si sta bene in mezzo all'acqua stagnante, delle cose morte dentro, come il tuo mancarmi, come il mio amore per te. Se aprissi la finestra tutto questo si seccherebbe, ma qui una finestra non c'è e dobbiamo tenerci l'umido, dobbiamo tenere duro, mi ammollo. Continuo a ticchettare e non succede niente. Le branchie mi si fanno piccole piccole e mi viene da pisciare. Dentro l'acqua pisciare è così bello. Pisciare non è così bello quando si ama fuori dall'acqua. Lo so che in piscina non si dovrebbe, ma che ci posso fare? È così bello. Rilassare la vescica, così bello, lasciarsi andare per una volta sola, che ci fa? Marcirà un poco dentro, che ci fa? Non ci sta una finestra, che ci fa? Che ci fa? Che ci fa? Il mandarino spruzza agrume da tutte le parti. Ho tutti i pori spalancati. La crisalide si lamenta, ho male dappertutto. Le dico che mi dispiace, che al vagone 14 può trovare il defibrillatore disponibile in caso di necessità. Le dico che è proprio lì e che c'è il bar aperto, che il cibo aiuta a dimenticare quando c'è qualcosa che ci amareggia. C'è stata una amareggiata nel mio stomaco e ha fatto un sacco di vittime. Me le sono procurate tutte io. Non avevo intenzione di farlo, ma fa uguale lo stesso. Non ho fatto in tempo a ticchettare che era già di nuovo tutto fuori. mi aveva avvertita e non l'avevo presa sul serio. Io volevo solo che mi amoreggiassi. Volevo solo che mi amoreggiassi un pochino. E adesso che spruzzo per Benino, mi chiedo come ho fatto ad amoreggiarti io. Come ho fatto a volerti ora che sembri una melanzana rinsecchita, svuotata dall'interno. Sei secco. Sei secco, secco. Sei una pera secca, una prugna secca. Sei secco, secco, secco, secco. Ma oggi c'è solo l'amaro del mandarino che manderà tutto all'aria. Il signore dell'uovo si toglie il cappello e mi rivolge un saluto. Ha il guscio tutto spaccato, si vede il tuorlo ancora liquido, non mi piace per niente. Arrivederci, non si preoccupi, lei è arancione come la buccia del mandarino che mi ha amareggiato, ma non posso, mi scusi, non posso, ho tutti i pori spalancati che spruzzano liquido amaro, non possiamo fare una strage qui, mi duole dirglielo, ma lei è davvero arancione, ma spero che lei si rapprenda, lei cola da tutte le parti, ma potrei consigliarle di prendere il defibrillatore, il defibrillatore per friggersi un po', è disponibile nella carrozza 14 in caso di necessità. Spero lo prenda. Insomma, che qualcuno lo prenda o sparo. Ho una buccia di mandarino che brucia gli occhi per quanto è amareggiata. Mi potevi amoreggiare? Volevo solo essere un po' amoreggiata da te come ti amoreggio io di amaro. Ti prego, mi manchi, fatti toccare. Qualcuno porti un defibrillatore, non mi sento bene. Ci sono pezzi per tutta la Svizzera, non sento il polso, ho solo uno stomaco, ma non ha fondo, si è amareggiato, mi serve del battito. Ho poco ticchettio, mi squilla l'arteria, sei cattivo. Come gli alberi, non mi vuoi più perché non ho battito, non batto niente, io sei come gli alberi, arcigno, vieni qui che ti friggo. Qualcuno chiami la carrozza 14, ho bisogno di un battito, mi abbatto. Io battimi forte, non mi lasciare. Mi pare normale che stiamo insieme, non mi fregare. Io batto per te, io batto forte per te, guarda. Le mucche in Svizzera stanno per pascolare, le senti gridare. Se le spingi poi cadono, non c'è bisogno di fare così male. Mi devi ascoltare, non voglio morire. Se mi trovi stecchita non è per dispetto, io mi defibrillo, io brillo per te. Ma non te ne andare, ti posso toccare. Mi fai male se te ne vai, una cosa rotta, una brutta immagine per un breve racconto banale come il mancarmi di te, che oggi è semplice e un po' banale, dai, prova a non sparire oggi. Vuoi vedermi morire? Porta il defi... Porta il defri... Porta il defri... Il defri... Brillatore, ti faccio vedere. Per rimettere insieme i pezzi si fa così. Si prende un pezzettino, ci si taglia le dita, poi ne prendi un altro e lo metti così e ci metti la colla. Hai visto? Si è sporcato tutto di tuorlo. Guarda che non fa niente. È solo un po' crudo. Fra un poco si cuoce, è una cosa da niente. Ti fa schifo? Anche a me. Questa sì che è una bella notizia. Lo vedi che siamo fatti per amoreggiarci? Io ti amoreggio tantissimo. Tu mi amareggi tantissimo. La mia pancia scoppia, mi si scoppia, mi si allaga, allaga la testa. Capriole. La bambina mi guarda con gli occhi spalancati. È fredda? Le chiedo. No, è calda. Mente. Lo so, ma mi guarda con gli occhi di nocciola. Sono due ghiande gigante e i riccioli d'oro mi alle scuro e caldo. Ho paura che scivoli nell'acqua e che anneghi. Ho paura che pianga. Ma lei non piange. Mi spalanca gli occhi e si tiene tutta dritta, vispante, ruspante, pronta a fare le capriole. Io divago e guardo intorno, la ignoro. Il vialetto è vuoto, il cancello è chiuso e a casa mia non c'è nessuno. Ci siamo solo io e lei. E lei mi guarda con gli occhi spalancati. È grigio. La tuffo nel prato e le prometto le capriole. Passo numero uno. Se ci penso adesso con lucidità, lancio le gambette molle all'aria che si ingalipettano rotovoltando. Poi aspetto che la gravità si imponga e la butto verso le mie braccia allora. Se le mie braccia sono preparate e pronte, la prendono. Se invece no, lei rischia di spezzolarsi e cadere a frammenti nell'acqua. Le bambine a quell'età nell'acqua non respirano, al massimo si lavano. E che ne sarà della mollezza di quelle gambette che si divaricano per sempre ed è colpa mia? Lei mi studia con quelle ghiande spalancate. Che cosa vorrà da me? Io le ho promesso di lanciarla in aria e lei... Lei non mi lascia se non la lancio. E se la tecnica della spinta non è precisa? Se la quantità di pressione non è uguale alla volontà? Se la gravità si impone troppo forte e le divarica la mollezza delle carni? Se sbatte la testa nell'acqua e la schiaffa la faccia, dopo che io che faccio? Mi ingalipetto anch'io? Non avrei chi mi lancia e l'acqua mi intrappola le gambe. L'erba alta mi costa fatica. E se fallissi qui nessuno correrebbe in aiuto. La casa è vuota, il tempo è indaffarato, non c'è fretta. Ritardo il momento in cui le mentirò. Guarda, facciamo così. Restiamo in superficie, bagnandoci solo un poco, il collo rigido per evitare il contatto. Con gli occhi lei si aggrappa agli avambracci. Si fida di me? Che strano. Se adesso lasciassi le mani, se adesso le lasciassi e lei sprofondasse giù, che succederebbe? Dove andrebbe a finire? Continuerei ancora a respirare? Chissà se i suoi occhioni di nocciola ci pensano. Chissà se aggrapparsi agli avambracci è una precauzione. Chissà se la sua è paura di morte. A me sembra più desiderio di capriola. Parliamoci chiaro, è una follia. È una... Parliamoci chiaro, è una follia. Abbandonare la certezza del suolo e abbandonarsi al vuoto sconosciuto. Metti che poi sgambetta e si storce tutta. Metti che poi annega. Metti che la uccido mentre lei si aggrappa agli avambracci. Cerco qualche aiuto intorno, ma non c'è nessuno. Ti è piaciuto bagnarti in superficie? Sì, adesso la capriola. Lei mi fissa con quelle ghiande spalancate. Mi sfida? No. Mi guarda. Mi vuole tranquillizzare. Lei è pronta a capriolare. Nella sua testa si ingalipetta ed io sono pronta a capitollarmi, a tapparmi il naso e a immergermi nella piscina di erba alta. Ho paura. L'acqua che nella superficie è limpida, in profondità è torbida. Il fango blocca le mie gambe. La tengo sollevata la bimbetta, ingalipettata. Lo so che lei se lo aspetta. Da un momento all'altro si aspetta un lancio, si aspetta da me che sappia lanciare, ma un calcolo preciso di volo, una coordinazione fra gesto e intenzione, fra intenzione e risultato, io non lo posso assicurare, mi arrendo. Brutti occhi di bambina, ghiande marroni, grandi come palle che mi fissano aspettando il salto, no, non sono sicura di farlo, il margine di pericolo è troppo incerto. Ho mai saputo come fare le acrobazie? Il vuoto mi ingalipetta lo stomaco, temo l'impatto. Perché tu, bambina, non lo temi? Sì, lo temi. Lo temi, ma ti fidi di me. Sono io che non ho fiducia. Il suolo è fangoso, ma certo, una poltiglia che mi sporca tutta, che mi incerta il cammino. Se ti lanciassi, potrei morire. Potresti morire, dissolverti nel nulla, potrei non sapere più dove sei finita, l'atterraggio non è assicurato, non c'è modo di stabilire se alla fine sarai integra e salva. La tua carne mollacchia, mi sfugge dalle mani, le dita si conficcano nella ciccetta dolce dei tuoi fianchi e tu non ti lamenti. E se adesso la prendessi in mano, se mi prendessi in mano e con una rincorsa delle braccia mi lanciassi in un calcolo incerto, accettando il destino, lei è pronta. Io sono scarsa. Non posso assicurarle l'atterraggio, non posso assicurarle la giravolta, ma in uno slancio la galipetta è pronta e può spezzarle quel collo piccolo, la fronte, franare sull'acqua, girovoltare nell'aria, confondendo le braccia e le gambe, stendendo la ciccia molla, spiaccicando gli occhi di ghianda, quella pelle molla sarà piena di lividi e sarà tutta colpa mia. Quella pelle di latte diventare viola, di sangue, di grumi che capriolano nella carne, collo schiacciato e fronte spiaccicata, i rischi del mestiere di chi galipetta, in cambio l'ebbrezza del volo, le capriole nello stomaco, è uno slancio e i piedi si staccano dal suolo. L'atterraggio non è assicurato, ma il volo sì. L'affidamento al niente, dimenticare i frammenti taglienti che hanno fatto sanguinare le dita. Dimenticare l'atterraggio violento, munirci di ciccia di latte per attutire gli inconvenienti, portarsi le sacche di sangue per sopravvivere è una piccola morte. Decidere che il suolo dei piedi è morto e sperare di trovarne un altro. Aprire le braccia in caso di volo, accettare il vuoto. Una scossa e mi risveglio. Due scosse e vedo meglio. La porta non si vuole chiudere, si comporta la fisarmonica. La Svizzera è un luogo molto civile. Se volessi strappare il fondale, ti direbbero gentilmente che non si può fare. Mi sono pianta addosso, davanti a tutto il paese. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma l'acqua impedisce il contatto. Lei non defibrilla più. Le abbiamo dovuto asportare lo stomaco che etichettava troppo. Le daremo un orologiaio svizzero per farlo aggiustare. Qui gli orologi di solito si aggiustano, ma non so che cosa si possa fare con il suo cuore. Ha fatto cortocircuito. Mi dispiace per tutte le sue parti spaccate. Mi dispiace davvero tanto, ma le darò un bacio in fronte, dice il dottore, dovrebbe bastare per un giorno o due, ma lei smetta di amareggiarsi, così o le usciranno tutti i liquidi dai pori e sarà una vicenda paurosa per tutti. Se le dispiace, se non le dispiace, non ci dispiaccia, ce ne abbiamo da fare e da defibrillare. Mi scusi un momento, ma che cosa ha sul braccio? Tiene un pugno chiuso. Ma si sbottoni pure, come può parlare? Dov'è che le fa male? Qui. E le do un bacino. Qui. Le do un bacino. Qui, qui, qui. Le do un bacino qui, qui, qui, qui. La tua immagine è sparita. Anche se volessi coccolarmici, non la vedo più. Le luci flickerano. Il bar alla carrozza 14 è sempre aperto. La signora della crisalide si è disciolta. La buccia di mandarino secca sul termosifone. C'è un fantasma sull'angolo del mio occhio destro e lo scaccio. Oggi accetto che ti amoreggio anche se tu non ci sei. Io volevo costruire una capanna con te, con le mura e tutto il resto. E non ho ben capito perché un cuore spezzato è una cosa banale. A me sembra una vicenda di una serietà capitale. Zelensky, Putin e Trump avrebbero molto meno da dire se avessero qualcuno che li amoreggia per bene. Ho tutto l'amaro appiccicato alle mani. Ho comprato tutti i posti intorno a me per starmene da sola, finalmente. O c'eri tu, e allora era un conto. Ma non voglio vedere crisalidi, gusci d'uovo, tutti spaparanzati intorno. Quanto tempo è passato da quando sei partito? Mi sembra tanto tempo. Oppure era solo ieri? In ogni caso non è bello. Mi avevi detto che mi amoreggiavi per sempre, invece alla fine era solo fino a ieri. In Svizzera sono molto educati. Se ti squilla il cuore, ti dicono gentilmente di spegnerlo. Così non mi posso distrarre. La luce flickera e diventerò epilettica, come te. Epilettico. La buccia di mandarino sul termosifone mi sembra una tettina. Se avessi pochi mesi la succierei. La I non ci starebbe in quel posto, ma è l'unica lettera con un capezzolo, quindi meglio abbondare. Che ne dici se passiamo un ultimo giorno a seppellire il nostro amore? Ci servirà una pala per infilzarlo per benino nel sottosuolo. Lei mi sta addosso con questa luce, non si riesce a pensare. Praticamente, quello che voglio dire è che ci si amora meglio quando è notte a luce spente e ci si scava dentro con i denti gli uni con gli altri. Mi sono spostata, ma c'è una lucera che flickera ancora e mi segue. Devo luccicare. Non ho più dove scappare. Devo cominciare a sbrilluccicare. Le luci flickerano e mi inseguono e neanche gli occhi chiusi aiutano. Per favore smettetela, basta, lasciatemi in pace. Ho detto che smetto, ho detto che luccico, ho detto che buio, io ho detto che basta. Che cos'altro volete da me? Che diventi eclettica? Che diventi ellittica? Che diventi apoplettica? Che friggo per terra come un tuorlo? Che mi defibrillo a puntino? Allucinante, ma mi allucinate, allucinante. Forse è per questo che te ne sei andato, perché ti accecavo gli occhi, ti ho reso epilettico, apodittico, apoplettico. La fine di un amore è come un polpettone che ti risale su quando meno te l'aspetti. Ma io ho spruzzato tutto fuori, ne ho abbastanza. Anche senza operazioni me lo stappo via, questo amore. Ne ho abbastanza. Dei flick-flock, ne ho abbastanza di tic-tac e di tic-toc, basta. Sono alla fine, mi infinito e così la finiamo qui. Tutta questa storia mi frigherà, mi sconfinfera, io mi sconfino dentro e vi dico ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, oh, oh. Finalmente. Un po' di buio. I treni svizzeri ticchettano così bene che siamo arrivati in anticipo. Prestati a questo ascolto. Grazie. Avevo una situazioncina. Sì. Vai, tolgo. Questo ce lo riportiamo. Allora vieni Nicoletta qua in mezzo a noi su questo meraviglioso al centro. Allora aspetta, questo lo spostiamo. Wow. Ok. Vai. Grazie. Grazie, grazie alla corte, grazie a voi che siete qua. Grazie a voi. Grazie. E, vabbè, questo testo, per chi è arrivato dopo, era un testo che appunto Nicoletta fa per la prima volta stasera e che appunto era rimasto nel cassetto, perché di base un po' un esperimento anche quello di metterlo in voce oggi. Allora, no, forse direi che giusto per contestualizzare, appunto anche per spiegare un po' il nostro format, noi abbiamo questo podcast in Exalge che è dedicato solo alla drammaturgia femminile e l'idea è proprio quella di invitare delle ospiti che leggano il loro testo, che di solito è un testo inedito, in fase un po' di bozza, di lavorazione. Proprio perché grazie a questo format in cui non c'è effettivamente uno spettacolo ma è proprio una lettura del testo davanti a un pubblico, abbiamo modo sia noi che le autrici di vedere un po' qual è la risposta del pubblico e quindi niente, abbiamo invitato Nicoletta che avevamo già visto recitare un testo di Giulia Trivero al Teatro Elpo. Scusate, sto mangiando una caramella, mi rendo conto che è terribile, non so come fa. Che ci è piaciuto molto, non vi spoileriamo perché speriamo di presentarlo presto anche a Cavarexta. E allora, io e Martina adesso intervisteremo un po' Nicoletta per farci raccontare un po' il testo, eccetera, ma sentitevi liberi di intervenire quando volete, perché ci piace anche la cosa che sia un po', insomma, un dialogo anche con voi che siete qui e che possiate dire come l'avete vissuta, eccetera, eccetera. Quindi, quando volete, alzate la mano e vengo a chiedervi. Quindi, intanto ti chiederei, Nicoletta, come stai? Meglio? Andata, fatta. di raccontare un po' chi sei, diciamo, forse un po' la tua formazione teatrale. Appunto, sei sia attrice che drammaturga, quindi se vuoi darci un po' un background su questo, anche solo per spiegare un po' il contesto a chi magari non è del mestiere, ecco. Sì, ok. Dai, poi parliamo del testo. intanto veramente grazie di aver fatto da pubblico questo tentativo, questo esercizio, diciamo. Io ho fatto la scuola di ERT, che è la scuola di Emilia Romagna Teatro, che è il Teatro Nazionale dell'Emilia Romagna, quindi mi sono formata come attrice, anche se, diciamo, ho saputo abbastanza presto che non avrei voluto fare l'attrice pura, perché ho sempre avuto voglia di creare delle cose. E non sono neanche drammaturga pura, perché tendenzialmente, cioè, se scrivo qualcosa è qualcosa che deve andare in scena. Caprioli infatti è un po' un'eccezione, perché invece è proprio un testo puro che non è nato né dalla scena né forse per la scena, non lo so. Cosa mi hai chiesto poi? No, se sì, vuoi raccontare un po', cioè, diciamo, lo dicevo anche perché penso che sia interessante il fatto che non sei la prima, tra l'altro, che, tra virgolette, nasce come attrice e poi si approccia alla drammaturgia, quindi se c'è un motivo per cui, cioè, non so se è una cosa che vivi come una bivalenza o invece ormai è una cosa che magari... È una domanda molto interessante. Insomma, perché hai deciso di... cioè, o anche banalmente, quando scrivi, perché scrivi? Allora, diciamo che come impulso iniziale, io questa cosa, non so, anche fin da quando volevo, da piccola volevo fare l'attrice già, però sentivo che non volevo fare solo l'attrice, perché in qualche modo avevo voglia di creare qualcosa, cioè non avevo voglia soltanto di essere esecutrice di qualcosa, poi gli attori sono comunque dei creatori, però avevo voglia sì di scrivere, di creare dei mondi in qualche modo. Sì, scusate, non riesco a guardarvi. Un po', perché mi vergogno. E quindi questa è la mia cosa personale, diciamo, cioè ho sempre voluto anche essere dal lato creativo, autoriale, diciamo. E poi c'è anche, secondo me, invece una questione, perché tu dici tante attrici, tanti attori, un po' secondo me perché il teatro, cioè il teatro è qualcosa che dall'albo dei tempi uno scrive, mette in scena, cioè l'attore è anche un po' autore di se stesso, un po', no? Cioè i grandi anche che noi sappiamo, cioè che ne so, cioè dall'albo dei tempi comunque, cioè chi metteva in scena scriveva anche, cioè come se fosse, io la vedo un po' tutta insieme. Poi c'è anche un dato invece più legato al lavoro, che siccome non c'è, e allora ci si arrabbatta e ce lo si crea per i, no? Che dici Tommy? Ti, perfetto, fa i pollici Tommy. Ci si crea, cioè sì, c'è anche quell'aspetto lì. Poi vabbè, c'è questa cosa, l'ho detta io recentemente a qualcuno, però è una cosa che non pensavo avrei mai detto a qualcuno. Però se ci penso, forse la cosa più originaria, io mi ricordo quando ero piccola vedevo i film di Pieraccioni e pensavo, vabbè, se non mi prende nessuno, io faccio come Pieraccioni, mi scrivo i miei film e mi metto come protagonista. Ottimo. No, quello che volevo dire io prima, impappinandomi, forse un po' preso dall'impappinamento generale anche del testo, che gioca molto con il suono, con la parola, è appunto che questo testo, come dicevi, io volevo fare la premessa che Nicoletta non è la prima volta che scrive un testo, ma questo testo in particolare è un po' qualcosa di diverso da quello che fa di solito, perché è appunto un monologo, perché è, come dicevi tu, solo testo, no? Però trovo molto interessante il fatto che anche quando è solo testo in realtà è anche molto azione, perché poi è molto sonoro, molto frammentario, è un po' un flusso di coscienza che a me ha fatto vedere tante azioni anche solamente nel sentirlo verbalizzato, c'è stato un movimento in qualche modo, quindi poi alla fine sì, è solo testo, però io l'ho visto vivere un po' questa sera. Quindi mi chiedevo come mai per te era un testo da tenere nel cassetto e non sperimentare, cioè cosa ti portava un po' anche a tenerlo un po' lì, e perché hai scelto, cioè hai voluto, quando ti ho chiesto di venire qua, non ti ho dato un testo da portarmi, cioè tu mi hai detto va, provo questo, quindi mm-hmm. In realtà un po' la curiosità di vederlo vivere c'era, no? Sì, perché no, infatti, perché siccome è un testo un po' non molto logico, avrete potuto, non so se l'avete notato, cioè non è che ci sono tipo i personaggi oppure una situazione chiara, cioè è un po' non voglio dire schizofrenico, perché in realtà ha una logica interna, però la mia curiosità nel momento in cui c'è stata la possibilità, diciamo, di fare una cosa in un ambiente protetto, era proprio quello di poterlo mettere alla prova, per capire molto onestamente se è una cosa che può, cioè se qualcuno oltre a me riesce a seguirne il flusso, o se è qualcosa di no, io sono completamente perso nella, cioè non, poi vabbè, chiaro, qui è proprio solo testo, non c'è neanche nessun tipo di messa in scena fra virgolette che lo può. E poi soprattutto quando io l'ho scritto l'ho immaginato molto solo suono, cioè proprio nel buio totale e solo sonoro, per cui mi faceva piacere provare. Poi quando sarà pronto il podcast me lo riascolterò piangendo per capire anch'io, però appunto, cioè proprio di metterlo alla prova è un testo diverso, la genesi è diversa, perché tendenzialmente appunto io magari se scrivo qualcosa per il teatro è molto legata al teatro, parte da un tema che io voglio affrontare, mentre questo per me è stato più un esercizio creativo in cui ho provato a lasciare diciamo il mio io creativo in qualche modo, non so tanto bene come spiegarlo, però più libero di fluire senza giudizio anche in una dimensione di accostamenti non per forza logici, ma di immagini che il mio cervello in qualche modo in un determinato contesto, seguendo specialmente un sentimento, ecco, più che un tema, un sentimento preciso, senza giudicare quello che veniva fuori, Per mettere alla prova una cosa che mi interessava, cioè che il fatto che spesso una cosa che mi interessa magari a teatro è quando vedo un pensiero puro, non... Sì, infatti io non ti avrei detto che, cioè, come dire... Cioè, non che io sia un'esperta di teatro, assolutamente, però per dire, invece io la logica che ci ho trovato è che mi è sembrato... se posso associare questa cosa, diciamo, il sonoro al sentimentale, cioè sembrava un flusso di coscienza come potrebbe essere, non so, Virginia Woolf o James Joyce, cioè non so neanche se parlerei di immagini nel senso visive, sono delle immagini sonore proprio, ma di sentimenti, quindi per me non è stato assolutamente tipo, oddio, è tutto senza logica folle, anzi, cioè... Ho seguito proprio il flusso del dolore, della sofferenza in questo caso, che racconti, ed era perfettamente logico nel senso di... E il fatto che mi dici anche che l'hai pensato come se, diciamo, letto al buio, ancora di più mi conferma questa teoria, perché la percezione che ho avuto è stata proprio come se stessi leggendo dentro di te. Quindi un flusso di immagini, di logica, che è quella non della razionalità, ma del sentire, non so, io l'ho vissuto così, molto bello. Ma e perché hai scelto proprio questo tema? Cioè, nel senso, non so se appunto per questo era una cosa che hai sentito e quindi che magari è stato anche utile come processo di elaborazione di una tua sofferenza, o se invece c'era, cioè non so se... Lo chiedo anche perché la ragazza che abbiamo ospitato prima di te anche ha fatto un testo su diciamo, comunque sul tema dell'amore, della sofferenza, della crescita, e a un certo punto mentre parlavamo anche lei l'ha scritto anche, diciamo, sul flusso di una cosa che ha vissuto, quindi non è che avesse diciamo, necessità di parlare di una cosa nello specifico. Però a un certo punto parlando appunto è uscito fuori un po' la questione che forse diciamo attraverso forse più attraverso la sofferenza che non il piacere o l'amore che impariamo delle cose e non so come dire, forse è anche quello che l'ha spinta ad avere quella cosa creativa di buttarsi e di scrivere, invece che non so... Poi non lo so, cioè non vorrei neanche gerarchizzare la sofferenza e il piacere, però appunto piuttosto che invece avere quella spinta da una cosa felice, ecco. Non so se l'ho spiegato bene. Allora, è chiaro che spesso effettivamente le opere nascono da un disagio, cioè dal disagio sicuramente. Poi bisogna stare molto attenti appunto a stare male, stare bene, insomma secondo me quando stai male non è che per forza è il momento più creativo della vita, sicuramente si scaturisce da una cosa che ho vissuto, però a me interessava effettivamente, cioè a un certo punto vabbè nel momento in cui ho vissuto questo sentimento ho anche provato a guardarlo in maniera scientifica. Nel senso che ho provato anche a vedere dove mi portava, che cosa mi faceva scoprire anche appunto della mia psiche. Effettivamente la condizione del dolore è anche una condizione che ti crea una soglia di attenzione magari più alta rispetto a determinate cose, penso, o comunque ti porta in dei luoghi dove non saresti, chiaramente non sto facendo l'apologia del dolore, si crea malissimo quando uno sta male, no. Però sicuramente a me interessava inseguire questo sentimento anche nella sua parte, perché non lo so, a un certo punto lo dice nel testo, in Caprioli dice poi boh è anche passato di moda piangere per amore, no? Cioè perché il cuore è spezzato è una cosa banale, eccetera. Perché effettivamente specialmente per una ragazza boh è una roba tipo no perché tu devi amare te stessa, cioè invece a me interessava un po' appunto inseguire questo sentimento anche nell'aspetto più imbarazzante dove ti può portare, cioè anche appunto sì, nei pensieri un po' più vergognosi che può suscitare, e senza proprio dignità che ti può suscitare quando soffri per amore, che è un dolore terrificante, che poi noi però chiaramente ci dobbiamo dare un tono, e quindi comunque no, per carità, vabbè, ci siamo solo mollati. Devastante. Però anche molto interessante in realtà poi quello che fa, appunto, non lo so, io l'ho trovato interessante. Cioè, ho trovato interessante questa cosa perché l'avevo già anche, per esempio, in uno dei testi che ho scritto. O comunque penso che in tutti i testi che ho scritto, benché partissero da una tematica, eccetera, io comunque nella scrittura, proprio nell'atto della scrittura, ho inseguito un sentimento privato, poi ovviamente da mettere in connessione con il pubblico, però nella scrittura in sé, a me questa è una cosa che interessa. Non so se ho risposto. Certo, lo so detto. Trovo molto interessante anche questa cosa della vergogna, no? Perché poi alla fine soffrire per amore, che è una cosa che succede a tutti, ci porta un po' a parlarne, è quasi vergognoso perché sennò è banale. Quindi secondo me hai avuto anche un molto coraggio nel portare questo tema e anche esplorarlo attraverso il suono, che ti porta un po' a, anche nel testo viene detto magari in un altro contesto, però mi concentro su dettagli inutili, però poi alla fine stai nella parola, nella ripetizione, nel suono, e alla fine esce fuori quello che invece è un po' il tuo essere a pezzi, che poi si manifesta anche nel testo stesso. Quindi in realtà io ho trovato questo modo di scrivere una possibilità di far fluire veramente l'onestà di quel sentimento che c'era sotto. Quindi a volte razionalizzare, cioè forse questa logica sonora porta anche un po' a quel sentimento, la possibilità di uscire e fluire e emergere in modo assolutamente non banale, perché poi alla fine non era un piangersi addosso, ma ci ha fatto anche ridere. Quindi ho trovato molto vivo e anche questo testo nel suo ritmo, nella sua logica. Vabbè, questo è un commento. Certo, a quanto non fosse banale, e forse dobbiamo smetterla di vergognarci anche delle cose banali, perché poi alla fine siamo banali, complessi e banali allo stesso tempo. Umani, poi alla fine c'è una, sì, un briciolo di umanità becera, che a me è quello che piace in teatro, cioè mi interessa quando vedo la fallibilità e la pochezza anche di noi esseri umani, no? Io forse chiederei, se c'è qualcuno del pubblico che vuole chiedere qualcosa o commentare? Io avevo una domanda. Wow, grande! Non ti vedo perché c'è un'ombra totale. Se... C'è il microfono, amico, per il podcast. Sì, vieni qui. Scusami. Esatto. Grazie. No, io mi chiedevo, dato che quando hai letto la parte in cui l'amore potrebbe provenire da diversi organi del corpo, mi era sembrata di averla già sentita da qualche parte. E io mi chiedo se tu l'avessi già letta da qualche parte, o se questa è la prima volta che leggevi questo testo e io ho avuto un déjà vu pazzesco, incredibile. No, non l'ho mai letta. Magari, però, voglio dire, non è una cosa così tanto originale. No, potrebbe benissimo essere... Mi fatto venire anche la domanda del fatto che magari l'avevo già vista da qualche... Mi era già venuta magari la domanda, mi era venuta la domanda che magari ti avessi già sentita da qualche altra parte, avevi letto uno spezzone di questo, e invece no, era la prima volta che tu, inedito, va bene. Inedito, sei stato il primo, probabilmente anche l'ultimo. No. No, però no. Beh no, perché adesso comunque, lo potranno ascoltare tutti, non è una cosa, esatto, ma non è così tanto originale come cosa, penso, però no, quella è tutta farina del mio sangue. Ma sì, ma perché mi ricordo, cioè, comunque questa, il mio sangue, farina del mio sangue. Ma sì, avevo un po' questa sensazione, no? cioè questo al di là del testo, quando nel periodo in cui l'ho scritto, diciamo, ormai è passato, però avevo questa sensazione che dicevo, oddio, vorrei che qualcuno mi portasse in ospedale, no? Cioè, delle volte quando stai male, anche per amore, cioè, soprattutto per amore, cioè, diventa una cosa fisica proprio. Ma è devastante. Devastante. Il dolore per amore è devastante. Cioè, devastante. Io sì, se troviamo questa pillola, possiamo mangiare dentro gli hot dog subito, grazie. No, forse no, in verità forse no. Non lo so. Scusa, ma... E comunque questa esperienza anche di ascolto, perché io l'avevo già letto, me l'ha fatto leggere da in un altro modo, no? Perché poi il testo ha delle pause, ha dei suoni, e sentirlo letto nel modo in cui l'hai fatto tu, in cui hai sperimentato oggi, comunque gli ha dato anche un'altra forma. Quindi secondo me, comunque, in ogni caso, è un testo che anche da ascoltare ha un'altra vita un po'. Quindi mi chiedevo se tu, leggendolo ad alta voce, avessi ti fossi vissuta un po' questa rilettura di te stessa in un altro modo. Comunque sì, certo, per me sì, leggerlo è stata una sorpresa, ovviamente, leggerlo ad alta voce. Non so se ci arriva. Allora, io ho una domanda che forse non ha senso, però te la volevo fare lo stesso. E la domanda era la seguente, cioè, se secondo te questo testo l'avrebbe potuto anche scrivere un uomo? Un testo simile o comunque un testo tipo il tuo? O se secondo te no, solo una donna potrebbe andare così giù? Allora... E dovremmo chiederlo a un uomo? Dai, uomini, diteci anche voi. Cioè, non lo so, cioè, io penso, non lo so, proprio in questo, cioè, io peraltro scrivo molto, cioè, i temi dei miei spettacoli sono spesso, come dire, il punto di vista femminile sulle cose, in qualche modo. Madonna, gli ho detto così, una merda, però vabbè. Però non lo so questo, ragazzi, l'avresti potuto scrivere così? State male così? No, sì. questo penso di sì, cioè, scusa. No. Io penso che solo tu avresti potuto scrivere così, perché l'hai scritto tu. Torna ecco, qui. No, questo è vero, no. Come che ti chiami? Edoardo dice giustamente l'avresti potuto scrivere solo tu, perché solo tu hai un cervello così. Però, no. Se posso fare una considerazione di così, questa esperienza cabaret extra fino ad oggi, Marti, se concordi, ci pensiamo. I testi che abbiamo portato parlano tutti in qualche modo di sofferenza e sono tutte donne, cioè appunto drammaturgia femminile, no, però sì, anche la Marti... Sì, però tutti soffriamo, noi essere... No, certo, però dico, no, ma non perché possano parlare o meno di sofferenza e provarla, dico che è una scelta, è un tema, cioè evidentemente anche il fatto che in forme diverse venga portato questo nella drammaturgia femminile è interessante. Cioè anche gli spettacoli, per dire, che abbiamo visto al Teatro Elfo, quindi non necessariamente nostri, questo, di questo parlavamo. Allora, Onare, vuoi... Io credo che non... Cioè che adesso l'arte parla anche di dolore sia maschile che femminile, e drammaturgia al femminile non vuol dire per forza che le donne sono le vittime, cioè io vorrei un po' uscire, no, certo, da questa retorica, no, però sì, sicuramente si affronta, cioè, il tema della sofferenza. Poi io noto molto anche che la drammaturgia al femminile usa molto il corpo e rende il testo corpo, quindi anche qua la cosa che mi ha stupito per esempio di questo testo è che, nonostante fosse solo testo, si utilizzasse molto in questa forma sonora di flusso di coscienza che lo rendeva quasi appunto corpo in quanto voce, in quanto suono. Poi sì, è vero che le tematiche che sono state affrontate sono molto di dolore, di sofferenza. Non so se sia un tema, cioè che la drammaturgia femminile parli solo di dolore. No, però penso, no, magari è una cosa che, anche solo come per questo piccolo esperimento, vabbè, tanto sì. cioè sia interessante che sia un tema effettivamente gettonato, cioè non tanto perché evidentemente c'è l'esigenza di volerne parlare. Allora, da questo punto di vista, allora, per quanto riguarda Capriole, per esempio, io non avevo esigenza di parlare di un tema. Cioè, al di là, al contrario, cioè, gli spettacoli che ho fatto, io avevo bisogno di parlare di un tema. Capriole, io avevo voglia di sperimentare una forma, non volevo parlare di sofferenza. Io volevo sperimentare una forma a partire da un sentimento. Poi sicuramente una cosa che è, perché no, vabbè, al di là di sicuramente la drammaturgia femminile non è solo dolore, eccetera, eccetera, probabilmente, sicuramente le donne sono più magari propense a, ad un'attività più interiore come, per come sono state educate. Quindi è possibile che fra i temi più ricorrenti ci siano dei temi più intimisti rispetto alla drammaturgia maschile. Questa è una cosa che potrebbe essere possibile. Però onestamente non so, e al di là di, al di fuori però di questo, non so se questo testo, cioè nel senso, non so bene rispondere alla tua domanda. A me sicuramente, ecco, a me non interessava parlare di sofferenza, mi interessava sperimentare una forma a partire da un sentimento. Che è una forma che effettivamente, cioè appunto, forse appunto, come dire, è un tema anche che si presta a questa forma, che è quella che penso dicesse anche Martina prima, cioè anche molto fisica, no? Corporale, sentimentale e introspettiva, quindi... Che è un po' una costante anche di a partire da Simona Semic in poi, cioè. Sì, poi c'è anche molto questo, il corpo, no? Che parte con un corpo che si frammenta e poi anche il corpo del testo stesso viene un po' frammentato. Quindi secondo me questo sì è un tema ricorrente, o un modo di scrivere sì. Ricorrente, ed è una, forse una voce propria che... un linguaggio, uno stile anche in qualche modo che molte donne hanno fatto proprio, poi non è detto che solo le donne lo facciano. Secondo me c'è stata una ricerca al di fuori della forma standard che è anche stata, che è partita da un'esigenza di provare e sperimentare una forma diversa rispetto a quella che era la convenzionale, però qui si va molto indietro. Sì. Però c'è molta sperimentazione con questo e molte donne che scrivono sono anche attrici, quindi il suono è comunque appunto un dire. Sì, il corpo, cioè sì, esatto, molto fisica come scrittura, sì. Sì. E, vabbè, comunque a me è piaciuto molto. Grazie. C'è una... Vai, Bea. Devo usare il microfono? Sì. Non posso venire più di così. Grazie. Io volevo ringraziarti perché secondo me sei stata molto altruista nel donarci questa tua storia personale, non so fino a quanto. Mi sembra che ciò che hai affrontato spesso in teatro in Italia potremmo vederlo molto come un crogiolarsi su se stessi, invece tu ci hai completamente resi partecipi e l'hai fatta nostra e ci hai portato con te dall'inizio alla fine. Sono curiosa anche perché ti conosco nella vita, ma mi piacerebbe capire come sei mentre scrivi. Se per esempio questo flusso di coscienza è stato davvero un flusso di coscienza che hai scritto in una o due notti o un lavoro di mesi, non lo so, ti immagino magari che ridi, senti il testo già con la voce essendo attrice, il ritmo, come nasce? È solo una scrittura, scomponi le parole, le tagli a pezzi come hai fatto poi o... Le parli mentre scrivi. Grazie ancora. Grazie. Sei un talento. Grazie Andrea. È una domanda molto interessante. Allora, come scrivo? Allora, io molto spesso scrivo a mano. Quando scrivo, io scrivo dei quaderni, scrivo molto a mano. Questo testo è composto da tre parti scritte nello stesso periodo in momenti diversi. E, quello del flusso di coscienza sul treno è davvero un flusso di coscienza di 4 ore di viaggio, se non di più forse, tra... sono 7 ore di treno, tra Parigi e Milano, in cui ho proprio fatto, poi ovviamente l'ho un po' risistemato, ma comunque cercando di mantenere il flusso di coscienza, perché ho proprio voluto fare un esercizio in cui lasciavo la mia mente libera di andare, e, interrogando sostanzialmente poi anche la creatività stessa, per capire se questa cosa, e infatti è molto importante anche l'incontro poi con voi, perché mi interessa sapere se, cioè, siamo più intelligenti noi quando scriviamo razionalmente le cose, o quello che produce istintivamente il nostro cervello può avere un interesse magari di creare qualcosa di inaspettato, delle associazioni inaspettate, delle immagini inaspettate, delle cose che non c'entrano un cazzo l'uno con l'altra, però messe accanto, magari per chi l'ascolta dici, oh wow, cioè io poi quando l'ho riletto ho detto, boh, non si capisce un cazzo, però mi porta da una parte, poi magari appunto è solo a me, quindi poi mi serve anche sentire che cosa ne avete pensato voi. La parte delle capriole segue un po' questo meccanismo, parte da un sogno sostanzialmente, sempre appunto scrittura a mano, così la prima parte, quella un po' più lavorata invece, la prima parte sempre parte da pezzettini, poi magari io spesso se sto scrivendo una roba faccio tutt'altro, proprio delle cose, anche degli esercizi creativi, che sono tipo camminare, farsi la doccia, lavare i denti, lavare i piatti, cioè quelle cose che, o farsi un riposino, un botto di robe l'ho scritto nel momento in cui, oh, voglio fare un riposino, tink, vabbè, basta, e prendo un sacco di note sul telefono, questi sono i miei 2 centesimi sulla mia scrittura. Va bene, allora grazie a tutte e tutti, e grazie ancora Nicoletta, e niente, speriamo di rivedervi in Exalgio per le prossime puntate. Grazie, grazie mille, grazie Fede. Grazie alla Corte che ci ha ospitato. Grazie a voi ragazzi. Grazie alla Corte che ci ha ospitato. Grazie a voi ragazzi.